sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Melog, cronache meridiane, di Gianluca Nicoletti. Nel parere consultivo dei tecnici, il metodo Stamina non avrebbe consistenza scientifica tale da giustificare una sperimentazione per la quale sono stati già stanziati 3 milioni di euro e autorizzata dal Parlamento. Una relazione di 100 pagine redatta da un team concorde nel definire le basi di Stamina molto deboli, i suoi contenuti ben poco innovativi rispetto a quanto già detto e scoperto sull'utilizzo delle staminali, il suo funzionamento carente di prove scientifiche che lo supportino. Il presidente della Fondazione, il professor Vannoni, dice di non essere sorpreso, annuncia un ricorso già pronto e redatto sull'onda della sua convinzione di trovarsi di fronte ad una commissione fortemente prevenuta che non riuscirà, almeno nelle sue speranze, a bloccare la sperimentazione. Una sperimentazione. Quanto tempo ci sarebbe voluto se non avesse avuto un esito giudiziario con dei margini elevati di certezza perché il caso Stamina diventasse ufficialmente la rappresentazione di un nostro livello di profonda e radicale ignoranza nei confronti della conoscenza scientifica, del metodo scientifico? Probabilmente molto tempo, perché io ricordo ancora nemmeno un anno fa le manifestazioni, la gente si tagliava e schizzava sangue sulle immagini dei ministri, le famiglie che mostravano i progressi apparentemente efficaci ma realmente fittizi, ahimè, indimostrabili nei loro bambini, tutto un misto di tenerezza, di superstizione, di sfruttamento comunque della buona fede delle persone, ma ancora peggio, di sfruttamento del dolore, della sofferenza, in nome di un principio per cui tutto ciò che appartiene all'area della scienza, metodologia certificata rispetto a un metodo di cura non appartenga altro che a qualcosa che desta sospetto. Perché? Perché noi siamo un paese che tende di più alla certezza sciamanica, un paese che va più volentieri dalla cartomante piuttosto che andare da un neuropsichiatra, un paese che va molto più volentieri dal santone, va molto più volentieri dal mago piuttosto che una persona che possa tecnicamente affrontare i suoi problemi finanziari, i suoi problemi sentimentali, i suoi problemi di salute. E di fronte a questo probabilmente dobbiamo interrogarci perché a un certo punto abbiamo preso questa deriva, perché come dice Marco Ferrazzoli, che è il capo ufficio stampa del CNR, che ha appena pubblicato un libro proprio sulla necessità e la difficoltà comunque di fare una divulgazione scientifica nel nostro paese, la conoscenza ridotta a opinione. Il titolo è Parola di scienziato, libro curato appunto da Francesca Dragotto e da Marco Ferrazzoli. È un libro che racconta quelle che possono essere state le vicende articolate, complicate, di una persona che deve comunicare comunque la scienza, di fronte a un muro di persone che in realtà preferiscono ascoltare ciò che dà un'illusione di certezza immediata, di cura sicura, o perlomeno è romanticamente e emozionalmente molto più efficace. Tutti i principali raggiungimenti, conoscenze in ambito biomedico sono ottenuti anche proprio grazie alla sperimentazione sugli animali. Poi ci sono altri tipi di sperimentazioni collaterali, ma se certe cose non le proviamo sugli animali prima, non possiamo certo usare l'uomo come cavi. C'era tutta un isolato della mia via che era completamente ricoperto da manifesti che riportavano la mia foto, l'indicazione che io ero un'assassina, che abitavo nelle vicinanze con il mio indirizzo di casa preciso fino alla scala e con il mio numero di telefono di casa e l'invito a chiamare il boia per dirgli che cosa si pensava di lui. Ad aprile sono stati attaccati i laboratori di farmacologia, quindi è una protesta. Ricordate una trasmissione che noi abbiamo fatto qualche tempo fa, un anno e mezzo fa circa, mi sembra di ricordare, quando ci fu un assalto animalista agli stabulari in cui dei ricercatori del CNR stavano facendo ricerca anche su malattie genetiche molto gravi e molto diffuse, ma improvvisamente sembrava che l'opinione pubblica fosse emozionalmente più presa dalla sorte di topolini cavia che sono stati portati via dagli stabulari con un atto violento, un atto molto vessatorio, e messi probabilmente in un luogo dove le possibilità di sopravvivenza comunque erano molto limitate. Perché siamo un paese che tende emozionalmente a credere e pensare che gli scienziati siano degli uomini cattivi che per sadismo vogliono infliggere sofferenze inutili agli animali piuttosto che persone che stanno cercando con un metodo che ha una sua correlazione, una sua verifica continua di aiutare l'umanità a vivere meglio? Marco Ferrazzoli, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Marco Ferrazzoli, ricordo, il capo ufficio stampa del CNR, che ha pubblicato il libro di cui ho soltanto accennato, Parola di scienziato, la conoscenza ridotta a opinioni, edizioni universitarie, curato assieme a Francesca Tragotto. È stato difficile questi anni dover gestire comunque la realtà scientifica nei confronti di chi si muoveva su piani emozionali, piani disinformati. Questa è una caratteristica proprio del nostro paese, però non molto recente. Tu nella prefazione del tuo libro, nella quarta di copertina, dici che perlomeno in una civiltà lievemente più arcaica della nostra, il farmacista e l'insegnante comunque rappresentavano il mondo della conoscenza, il mondo della realtà, e quindi in fondo assieme al prete, comunque aveva la sua parte, erano persone tenute in considerazione. Che è accaduto nel nostro paese da un certo punto di vista in poi? Ma premetto che io non rimpiango quella società, cioè una società nella quale esistevano dei meccanismi verticistici, verticali, top down, per cui chi non sapeva le cose doveva subire necessariamente autorità e autorevolezze che a volte non erano tali. Però dico che siamo passati ad un eccesso opposto, cioè quello nel quale crediamo di poter esprimere non soltanto un parere nel senso di libera espressione della nostra opinione personale, che è naturalmente sacrosanto, ma un parere motivato su argomenti che richiedono competenze precise per fare una valutazione, e di diffonderlo con pari dignità come quello di chi quell'argomento magari lo ha studiato 15 anni. Io ricordo alla manifestazione che si fece quando il Parlamento italiano ha introdotto la normativa sulla sperimentazione animale, introducendo delle norme più restrittive ancora di quelle europee, che già lo sono parecchio, un ricercatore che dal palco di questa manifestazione urlava quasi accorato, quasi piangendo: io conosco, incontro gente che mi dice ma io ho letto su internet. Hai letto su internet? Io queste cose le studio da 15 anni. Bisogna ridare un minimo di peso alla competenza, alla conoscenza dei temi. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Intanto ricordo 800240024, il tema di oggi è quello della difficoltà di una divulgazione di una mentalità più aperta verso la ricerca scientifica nel nostro paese, piuttosto tende alle visioni consolatorie corroborate dal senso che possa cadere sempre un miracolo, che esista parallelamente alla scienza una scienza non ufficiale capace di fare miracoli e di svergognare i cattivi scienziati. Ricordo che Stefano Morigi è uno storico, un saggista, filosofo della scienza, condotto assieme ad Alex Zanardi il programma E se domani su Rai 3, che trattava anche questi argomenti. Stefano, è un argomento che abbiamo spesso trattato, ma vediamo di ribadirlo alla luce di questa testimonianza del capo ufficio stampa del CNR, che in realtà nelle visioni generali potrebbe essere il peggior sicario degli scienziati che vogliono dominare il mondo con le scie chimiche e roba del genere. Qualche tempo fa è uscito, qualche mese fa in Inghilterra, un bellissimo libro di uno dei più importanti storici della scienza viventi, che si chiama James Secord, e si intitola, tradotto in italiano, Visioni della scienza, e lui ricorda come all'alba dell'età vittoriana si è iniziata una pratica da parte degli scienziati che ora noi chiamiamo divulgazione scientifica, ma che fin da quegli anni non era intesa semplicemente come la proposta a un pubblico di non specialisti di una versione accessibile di ricerche diversamente inaccessibili, ma la diffusione di una mentalità, di un modo di ragionare argomentato, di un modo di dubitare consapevole, di un'abilità nel selezionare le fonti. Ora, È difficile parlare di cittadinanza scientifica, di consapevolezza, di non cadere nelle truffe dei cialtroni, se la divulgazione scientifica non è fatta in questo modo, cioè se alla accessibilità di un contenuto difficile non si affianca anche la mentalità per poter gestire informazioni o reperire nozioni, soprattutto in un ambiente allargato come quello delle tecnologie. È evidente che dall'urinoterapia a Stamina, dalle cavolate sugli OGM alle bufale sui vaccini, persone che non hanno capacità di gestire informazioni complesse possono cadere in, come dire, informazioni intuitive ma non per questo più attendibili. Sì, e allora su questo credo che bisogna lavorare anzitutto. In questi giorni la rete è piena del messaggio salvifico di una nota attrice specializzata appunto nella bevuta abbondante la propria pipì, dice: mi sono guarita dal cancro in questo sistema. Marco Ferrazzoli, tu che poi maneggi invece lo strumento reale, concreto, tra i più attendibili e importanti del nostro paese, che è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quali sono le difficoltà reali e concrete poi che ti trovi quotidianamente nel tuo lavoro e che hai raccontato nel tuo libro? Ma le difficoltà, intanto diciamolo con molta onestà, sono anche relative al fatto che non sempre in passato soprattutto la comunità scientifica si è prestata a comunicare quello che fa in modo efficace al grande pubblico, però questo è un problema che con le nuove generazioni di ricercatori fortunatamente stiamo superando. Oltre a questo c'è naturalmente la esistenza e circolazione di autentiche leggende metropolitane come quella che citavi, però devo dire non è l'aspetto che mi preoccupa maggiormente. L'aspetto che mi preoccupa di più è quando sorge una preclusione di carattere ideologico oppure, come si preferisce dire, di carattere morale. Cioè questa cosa non si può fare perché non è giusta. E a quel punto ogni discussione sulla utilità di quella cosa viene a decadere. Il caso della sperimentazione animale è ovviamente il più tipico. Noi siamo di nuovo ancora, dopo il caso di farmacologia a Milano sul quale tu avevi fatto una trasmissione che hai prima citato e che è citata nel libro, come una delle poche trasmissioni, come dire, che abbiano preso una posizione. Sì, perché se la facciano tutti sotto, devo dire onestamente, colleghi, di prendere una posizione decisa nei confronti dell'idiozia di andare a distruggere gli stabulari per salvare dei topolini, ma sa, in fondo è molto poco redditizio dal punto di vista dell'immagine anche professionale provare a dire queste cose. Uno rischia di trovarsi in una lista nera, di essere linciato. Tolto la parola di bocca ed è esattamente questo il problema, cioè è una cosa che anche chi la pensa magari in questo modo non fa per convenienza, ma devo dire in qualche modo io stesso sono costretto ad adottare questa tattica. Abbiamo un caso ad uno stabulario proprio in queste settimane, i ricercatori giustamente premono dicendomi comunichiamo, facciamo capire, e io devo dirgli guardate che il mondo, almeno l'Italia, non è così disponibile a capire, perché ti dirà sempre che alla fine tu stai uccidendo, sopprimendo, o in realtà poi questo non avviene sempre, la sperimentazione non è sempre legale, stai anche solo utilizzando un essere vivente al quale si attribuisce una dignità pari a quella dell'uomo per una possibile applicazione terapeutica, e questo io moralmente non lo accetto. Capisci bene che a questo punto purtroppo qualunque possibilità di colloquio decade. È di fronte tutti i progressi scientifici acquisiti grazie alla sperimentazione. Hai di fronte un atto di fede che è inconfutabile, se non te lo pone come atto di fede la sua religione, potresti dire per te vale questo, non può valere per l'intera umanità che grazie a Dio ha una dirittura di comportamento più comportamentale, più indirizzata verso un atteggiamento laico, se Dio vuole, quindi tengo tutti contenti. Ci fermiamo un attimo per le informazioni del traffico, poi riprendiamo subito. Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, stiamo parlando della difficoltà di fare una seria, corretta informazione scientifica nel nostro paese. Prendiamo l'occasione presentando il libro di Marco Ferrazzoli, che è capo ufficio stampa del CNR, curato insieme a Francesca Dragotto, Parola di scienziato, la conoscenza ridotta opinione, Edizioni Universitarie. Abbiamo al telefono alcuni ascoltatori, li sentiamo subito. Angelo da Bologna. Buongiorno Gianluca. L'ascolto. Dunque, premesso che la mia non è una posizione di parte, quindi sono d'accordo che spesso e volentieri c'è questo atteggiamento definito sciamanico, per cui alcune persone sperano l'insperabile, però a mio avviso sarebbe opportuno anche un certo equilibrio dall'altra parte, dal cosiddetto mondo scientifico, nel senso che se si va a vedere la storia della scienza, in tutte le epoche chi si definiva scienziato era, diciamo così, colui che deteneva la conoscenza e null'altro poteva mettere in discussione quello che lui diceva. Tant'è che che la scienza si mette in discussione continuamente, è proprio dalla scienza mettersi in discussione. Mi permetta, finisco il giro. Nel senso che, andando a vedere, in tutte le epoche i fenomeni che non si riusciva a spiegare con le conoscenze del tempo venivano negati. Ad esempio? Salvo che poi, semplicemente provi a pensare, significava dire prima di Einstein che il tempo non è uguale per tutti, salvo che poi l'evoluzione scientifica e tecnologica portava nuovi strumenti di misura, nuove scoperte, per cui si diceva, quelli prima avevano torto, noi abbiamo ragione. Ma questo è il metodo scientifico, si sovrascrive continuamente su quello già detto, man mano che aumenta il livello della conoscenza e dell'approfondimento, non vedo quale sia il problema. Francesco da Bari. Sì, salve, buongiorno a tutti. Il problema, a mio avviso, rimane sempre lo stesso. È frutto questo dei nostri tempi. Si creano partiti per creare immagini che poi realmente non salvaguardano l'uomo in fondo, perché sappiamo bene di quali problemi ha l'uomo piuttosto che gli animali. Sì, vabbè, quindi, lei dice che in effetti... Quindi in fondo la scienza ha sempre avuto i suoi problemi legati alla commissione con il business farmaceutico, piuttosto che la gente è diventata... Sì, ho capito. Cosa, non è che possiamo dire tutto. Lei dice, voleva dire tutto e alla fine ha fatto un po' di confusione. Comunque mi sembra aver capito che non si stabilisce una gerarchia di esistenza fra regno animale degno del massimo rispetto e diciamo il genere umano e poi la scienza. Lei dice che in fondo in alcuni casi sicuramente può avere degli aspetti di commistione non chiari, non dico di no, però di fronte al fatto di dover comunicare la scienza c'è un problema nel nostro paese. Vediamo se lo conferma Manuela Rata. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Fondatrice presidente del Festival della Scienza, è stata direttore generale dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia. Si è chiesta probabilmente lei quali sono le radici profonde per cui nel nostro paese esiste una sorta di diffidenza di fondo, se non una confusione generalizzata nell'accettare comunque il metodo scientifico? Beh, direi che è l'ignoranza diffusa il motivo. È storico. Noi non abbiamo avuto l'illuminismo, non siamo un paese, diciamo, tra virgolette, laico, e quindi le credenze hanno sempre prevalso sui dati di fatto. C'è un lavoro, e devo dire con grande soddisfazione, vedo che nei cinema ci sono i film su Hawking, i film su Alan Turing, cioè la cultura scientifica comincia ad emergere, c'è un lavoro di tanti anni da parte di scienziati e di sostenitori in tutto il mondo. Credo che il grande problema sia sostanzialmente di tipo culturale. Stefano Moriggi, quello che ha detto Manuela Rata mi fa riflettere, ma forse... è anche un problema di saperla comunicare la scienza. Ha citato due film di successo, mai nessuno avrebbe pensato un film su Alan Turing che avesse successo. Mi ricordo, ne parlavamo alle nostre emissioni come un caso dimenticato, sepolto, nascosto nella vergogna e nell'ipocrisia. Invece è diventato un film di successo. Forse bisogna solo acquisire un metodo per rendere, non voglio dire una parola sgradevole, glamour, ma però accettabile qualcosa che è un po' difficile da capire per noi. Sicuramente questa è una delle strategie, probabilmente non l'unica. Anch'io sono molto contento che anche in un linguaggio così diffuso e frequentato come quello del cinema si cominci a parlare di scienza, anche se talvolta se ne parla farcendolo di non poche imprecisioni. Il film di Turing è uno di questi esempi, però ben venga che se ne parli. Sono molto d'accordo con Manuela Rata quando dice che è un problema culturale, soprattutto italiano, perché noi in Italia possiamo dirci tranquillamente degli intellettuali, se conosciamo Dante ma se ignoriamo la tecnica di soluzione di un'equazione di secondo grado, più difficile dirsi ugualmente intellettuale in un altro paese con un'altra tradizione. Quindi quando cominceremo davvero a considerare la scienza, cultura a tutti gli effetti, forse comincerà a cambiare anche l'orizzonte dentro cui concettualizzare e sviluppare strategie di comunicazione della scienza. La scienza non è solo un insieme di regole, di formule, di tecniche da applicare, ma come tentavo di dire poco fa, è la comunicazione di pratiche e di un atteggiamento nei confronti dei problemi. Quando il tuo ascoltatore dice che lo scienziato è quello che ha sempre detenuto la conoscenza e ha escluso gli altri dalla possibilità di mettere in discussione, forse ha presente il sacerdote che questo fa, non lo scienziato, perché lo scienziato esclude dalla sua comunità quello che non è in grado di portare argomentazioni in un contesto pubblico. E allora bisogna capire quali sono le vere pratiche della scienza per cominciare a frequentarla anche da non esperto, anche da cittadino che ha il desiderio e la legittima volontà di far valere i propri diritti in un contesto modificato, radicalmente modificato. Marco Ferrazzoli, ricordo, capo ufficio stampa del CNR. Velocemente, nei casi che tu tratti nel tuo libro, diviso per capitoli, ce ne sarebbero tanti a dire, oltre alla sperimentazione animale, il processo dell'aquila, il bosone di Higgs, la questione dei vaccini che provocano effetti collaterali, qual è stato quello che veramente ti ha dato più difficoltà nello svolgere il tuo lavoro? Temo che dobbiamo tornare alla sperimentazione animale in assoluto, poi siamo su un terreno molto diverso, per esempio le problematiche dell'ambiente che vengono quasi sempre tradotte in problematiche climatiche, climatologiche. Scie chimiche, tanto per capirci. No, mi riferisco ai cambiamenti climatici e che vengono normalmente poi ridotte in meteo, cioè la convinzione che per esempio una settimana di freddo particolare o di caldo particolare attestino la tendenza del clima. Questo siamo, ripeto, su un aspetto molto più leggero, naturalmente non comporta enormi problemi di carattere sociale, però è un'altra indicazione di come noi tendiamo a ragionare per percezione di dati assolutamente sporadici e casuali, senza capire quello che tu dicevi prima. La scienza non è un contenuto ma un metodo, ed è proprio l'affermazione, la confutazione progressiva degli errori che ci porta ad avvicinarci alla verità, che non abbiamo mai peraltro, perché nessuno scienziato può dire di raggiungere. Grazie Marco Ferrazzoli, complimenti e auguri per il tuo lavoro. Grazie Stefano Morigi, grazie Emanuela Rata, alla prossima.